Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ci apprestiamo ad affrontare per l'ennesima volta una terrificante estate. Speriamo di sopravvivere. Grazie a tutti quanti per la cortese attenzione, per l'affetto che non ci avete mai fatto mancare durante questa ennesima annata di cacce all'ideologico quotidiano. Grazie a Cristiano Valli per la regia, sempre oculata e intelligente. L'appuntamento sarà per, se ci sarà, per la prossima stagione. A risentirci tutti. Thank you.